gira la giostra, gira, gira la giostra, gira così. Yuri, Yuri lo sa che il vestito gliel'hanno cucito i secoli d'odio, di guerra e violenza, di fame, di pace e di civiltà. Capito, Yuri lo sa.